che ti racconti. Ho acceso e stavo ascoltando il QRM, non c'è mai nessuno, boh. Sì, ma io lo tengo acceso, però sempre con lo squelch molto alto, perché c'ho le altre radio. Beh, ma non si sente più niente, perché è così. Sì, infatti io lo stesso, con lo squelch alto, per non sentire il QRM, così almeno si sta zitto, se parla qualcuno magari già lo sente. Però si sente più la televisione che la tua voce. Aspetta che spengo il televisore. Adesso è spento, non si dovrebbe sentire nulla. Sì, adesso va bene. Purtroppo anche se il basso è troppo vicino e quindi si sente molto, capito? Magari con l'amplificazione del microfono si sente anche di più. È tipico dei vecchi microfoni. Lo so, ma questo abbiamo e questo ci teniamo, tanto apparecchiature come si deve non ne abbiamo, quindi ci accontentiamo, va. Basta comprarle. Per chi c'è soldi, sì, ammesso che ne valga la pena. Tanto ho apparecchio buono, ho apparecchio cattivo, se non c'è nessuno il risultato non cambia. Fa entrare chi ha fatto il commento. Avanti, chi vuole entrare sul 10. Buonasera, sono Cristiano. Se puoi ripetere, perché c'avevo lo squelch troppo alto, dai. Cristian. Ah, ciao Cristian, Natalino Alfa 1 qua in compagnia di Gianfranco. Ciao Natalino, ciao Gianfranco. Sì, sì, ciao. Anche se io non mi sento molto bene, forse la zona un po' favorevole, non so, probabilmente sei immobile. Oh, io via. Sono in macchina, sono in barra mobile oggi. L'abbiamo capito che sei in barra mobile perché arrivi basso di segnale. Ho dovuto togliere lo squelch perché se no non ti sentivo. Zona Sant'Orso, adesso sono Zona Sant'Orso. Sì, ho capito che sei Sant'Orso. Facendo il banco che prendo fra 10 minuti dalla fonte di spesa. Avanti già. Sì, una cosa è anche perché parla molto in fretta, che lo sentiamo un po' così, forse da quello. Niente, Natalia, stavamo dicendo che l'apparecchio sia buono, che l'apparecchio sia cattivo, se non c'è nessuno, in entrambi i modi. Non lo so, io intendevo buono perché potevo andare ad ascoltare da altre parti, capito? E magari lì ci voleva un microfono più serio, diciamo così. Questo comunque è vecchio il microfono, l'altro lo stesso vecchio, ugualmente peggio di questo, quindi si sente più da lontano che da vicino. Infatti, tipo Turner, quelli lì erano pronunciati per l'ambiente, tutto. Vabbè, è così. Poi, ne sono stato vittana, tutto tranquillo, tutto in ordine. Insomma, nessuna nuova, dai. Infatti, nessuna nuova. È nuova, che mi sto rimettendo, quella già è nuova, ho raggiunto già 60 kg, ne pesavo 52, sono arrivata a 60 già, là. Mi sto riprendendo. Quello è positivo, quello è molto positivo, così almeno puoi anche uscire, insomma, giri un trovare, passare un po' di tempo, perché stare a casa non è mai... dopo un po' diventa anche stressante, ecco. Quindi meglio così, Natale. Tanto qua mi sa che va a morire la cosa, non è che c'è talmente poca gente che oramai, no? Effettivamente siamo a livello più basso. Ok, vediamo dove è arrivato, ma insomma non lo ricordo, qualcosa che era in movimento, dai, riprendi tu. E a me volesse, buonasera. Sì, avanti, buonasera. Buonasera, non mi avete riconosciuto comunque, dai. assicurati e tutti i vincoli assenti. E ho capito, mi presento, mi chiamo Vittorio Volpe. Vittorio Volpe, boh, mai sentito. È stato Natalino che fosse lui più, come si dice, è più esperto di questi nominativi. Riprendi Natalino. Questo è il vecchio Vittorio Volpe. Ciao Vittorio, ben sentito. Ciao Natalino, sono andato proprio perché c'eri tu. Ho capito che mi avete il cambiuto, ma figuriamoci, non mi conosci tu, e chi mi conosce Giulia? E comunque, salutone a tutti e due, dai. No, ho voluto fare, l'ho acceso un attimino, per la volta, non faccio fare, è andato in mezzo allo stato. Purtroppo questi apparecchi, se tu non li metti in funzione ogni tanto, se no li mettono assurdi dopo. Sì, bacino di radio però, Vittù. Fra, questo abita vicino a Temmi. Sì, sì, me ne sono accorto, che è molto vicino. Dovrebbe essere, insomma, poco più in alto di me. Guarda adesso, la radio si è aumentato. 1, 2, 3, prova. Sì, già va bene, là. Se non hai qualche microfono più buono, ci accontentiamo. Già ti ascolto, Vittù. Ma questo è un microfono normalissimo, non ha niente di particolare. Ma quindi dovrebbe sentirsi bene, a mio parere. E parla più vicino, magari, forse è troppo lontano, perché non sei tanto alto di radio. Aspetta un attimino, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Adesso forse va meglio? Adesso sì, va meglio. Sì, un po' di regolazione ci voleva. E comunque, com'è la situazione che state passando in questo periodo di questo maledetto virus pazzesco? Sì, non c'è più nessuno qua, tranne qualcuno. Io stavo ascoltando, è entrato l'amico Gianfranco. È entrato e stavamo facendoci quattro chiacchiere, diciamo così. Avanti Gianfranco. Giusto per passare 10 minuti, così un attimino di svago, dai, gli impegni, le soliti impegni, niente di particolare. E tu in che zona sei? Mi dimentico sempre il nome. Oh, la vecchiaia. Vittù, in che zona sei? Ma che c'è? Oh, yeah. No, in che zona sono? Sono zona, non posso dire Monte Oro, che sono sulla parte sinistra, verso Monte di Giglia, diciamo, dai. Ho capito, io sono dall'altra parte, verso, dunque, come si può dire, sopra la stazione ferroviaria, dai, dove c'è il coso del passaggio a livello, però sopra, sulla collina. Ma il passaggio a livello di dove? Di Canega? No, di Molaffa. Ah, passaggio a livello di Molaffa, e allora siamo vicinissimi, a mio parere. Ma qua mi dice intorno ai 100, ah no, intorno ai 300 metri di distanza. Ma sopra Molaffa, verso, dove passi per andare a casa tua, per dire? Passi nella sala del 127 dove ci sono quei capannoni? Sì, sì, sì, sì. Ex-Samba, credo, no? Ho capito, quindi sulla sinistra rimane. Sopra Molaffa, a sinistra però. Sì, esatto, esatto. Da quell'ingresso a sinistra. Ma tu non è che sei lì lo stesso? Io sono lì, via Mandare dell'Aino. Ah, ho capito, allora ho capito dove sei. Praticamente io passo davanti a casa tua, perché tu sei quello che c'ha la, cosa, una Matova 1, però è bassa, forse sotto c'è anche l'antenna TV, giusto? Sì, esatto. Beh, no, beh, non è bassa, è sopra il tetto, sopra la casa, proprio su in cima, e quindi non è bassa perché non sono in una montagna, però è bella vita. Beh sì, siamo abbastanza liberi, per quello non c'è problema, ecco. Anche se l'antenna è bassa, cioè rispetto a quella che può essere a 5 metri sul tetto, insomma è sicuramente libera, ecco. Quindi sono riuscito a capire anche che bicchiere con l'antenna che deve essere anche molto molto molto adattata. Qui sto nata lì, perseverando si riesce a capire un po' dove ci sono anche vicini. Te l'avevo detto che ce ne avevi uno vicino, però non stava più entrando Vittorio, già è un anno che non l'ho sentito più. Prima, tanti anni fa, ero via Milano e poi mi sono trasferito qua in campagna, per modo di dire. Ormai è un paese qui dove sono io, ci sono case dappertutto, la più vicina è 20 metri e quindi già si sta bene, dai. Il problema è che il tempo a disposizione ce n'è poco, non è più come prima c'era più tempo, adesso impegni vari di vario tipo ti ostacolano e non riesci ad accendere questo cavolo di apparecchio. A parte che l'antenna che ho io ha 40 anni, gli manca un radiale, per carità, invece che si raddruggia, come si dice. E una volta la stavamo sistemando con Natalino un po' di anni fa, ma è rimasta così praticamente. Ma comunque va bene, quasi 9.40 praticamente. 9.40, questo è un apparecchio, è un lavagliette, una radio che non vale un cavolo, però ci ho collegato un digitale, ecco, 128K, che lo senti adesso, guarda, se vuoi ti faccio un qualche cosa, non so se senti qualche cosa adesso. Sì, un pochino sì, ma l'ecco a me poco mi piace. No, mi correggo, non sei 9.50, avevo visto male, 9.50, sì. Quindi noi possiamo modulare tranquillamente, non ci sorpassa nessuno a mio parere, vista la vicinanza. Ma assolutamente no, non credo proprio, data la vicinanza è quasi, è molto molto molto difficile che qualcuno ci passi. Io guarda, sto andando esattamente con un fatto e mezzo, non so quanto ti stia arrivando. Poi Natalino ci dirà i segnali, ma penso che tu sei sicuramente il più forte, perché ripeto, io sono lo strumento a 1.5, come va? No, io ho 4 watt adesso, non dava di più questo lavagliette, è un Texas, vecchio, tetrodo, insomma, però sta sempre funzionando, ho anche altri, ma funzionano bene, non ne ho avuto mai perché io non funzionano bene, ne ho avuto sempre che sono stati sempre eccellenti, diciamo, dai. Poi è chiaro che quando non li usi mai, lo accendi, ti faccio il condensatore e ce lo devi buttare. Tutto qua. A te Natalia. Io non so quanto ti sto arrivando, io sono con 2.5 watt. Sono. Vittorio mi arriva 9.10 e Gianfranco 9.20. Quindi Natali confermi, arrivo più forte io, possibile, sicuro che non sia al contrario. Ah no, arrivi proprio sul più tu. Ah, la faccio. E dico, l'antenna sta andando bene, deve essere merito l'antenna però. La sua, ripeto, rispetto al tetto non è molto alta, Quanto saranno, visto, 2-3 metri? Guarda, dal tetto saranno un 3 metri, 3.50 metri, proprio dalla punta del cordolo del tetto, diciamo. 3 metri, 3.50 metri, non di più. Poi l'antenna è 6 metri rotti, ma a me manca un radiale, è vecchia, è tutta messa male, proprio messa male, ormai è vecchia, non ce la fa più, però ancora funziona. L'importante è quella, tanto è visto, no, non c'è quasi nessuno. Così. Riprendi Natali. Infatti arrivi più forte tu Gianfra. Forse lui è più bassa l'antenna, ce l'hai per quello. Poi l'antenna io già lo sai com'è, che ce l'ho bassa e quindi non ricevo molto. Comunque tu mi stai arrivando più forte di Vittorio, là. Ho dovuto togliere la squelcia per sentire a Vittorio, se no non lo sentivo. Addirittura. Allora, Vittorio, probabilmente c'hai... magari in realtà non sta uscendo neanche un 4 watt, guarda parecchio. È probabile che stia uscendo con meno watt anche. Guarda, adesso provo a controllarlo. 3 watt e 8, è oscillante, ogni tanto fa 4, va. 3 watt e 8, 3 watt e 8. Poi è chiaro che questo è lo strumento, poi magari in antenna perde un po'. Sì, dipende anche dal cavo. Che cavo c'hai? 3G8, 58. No, il 58 è quello grosso. Beh, quello fino non ce la fa. Avevo un lineare, l'ho dato via. Avevo un lineare ZG 2002, che era una bestia, 600 watt, e l'ho dato via. E ho fatto un gravissimo errore. In cambio di altre cose. Purtroppo, sono gli errori che si fanno. Sì, ma tanto ripeto, se non lo non c'è occasione di usarlo con la roba, non fa niente, a parte che da questa posizione il lineare non è che sia che serva molto, Lo senti questo rumore, questo aereo che sta passando? Sì, a me? Sì, Vito, lo senti? Dato che sta passando qua sopra. No, non lo sento perché sono in cuffia. Ah, ho capito. È troppo lungo, comunque è militare ed è americano. Dico, è anche da dove sta provenendo. Era a Napoli all'inizio, sono andato in Spagna, adesso sta tornando indietro. Un elicottero dici? No, quello è quello del 118 che ci passa sopra a me e sopra a te. Questo è un aereo militare americano dalla US Navy, che ha fatto la rotta Napoli-Spagna e Spagna-Napoli, sta tornando indietro. Adesso sta andando verso Napoli, ci sta passando esattamente sopra, sia sopra a te e sia sopra a me, dato che è a circa 7000 metri di quota, abbastanza basso. Quindi. No, nella posizione che sono io non lo posso vedere perché sono in cantina. Devo uscire fuori per vederlo. Beh, anch'io fisicamente non lo vedo, ma lo sto guardando sul radar, capito? È per quello che te l'ho detto, se lo sentivi. Riprendi Natalì. Guarda, Vitu, come ti sto arrivando, che dopo ti faccio un altro passaggio e mi dirai. Come segnale, tieni presente che questo radaiette non ha... c'è uno smith che è proprio povero, Sei, allora, guarda ancora, eri a 7. Guarda un po' adesso, Vitu, come ti arrivo. Adesso ti è andato a 8. Più forte ti arrivo, no? Sì, più forte, ho aumentato il decibel. Già va bene così, però. 2,5 watt adesso sto usando, dai. E adesso si è sceso nuovamente a 7. Sì, lo so. Andiamo. Praticamente a 9, 9, 9, 10, 9, 9, 15, Natale. Quindi, visto, stai ricevendo anche più basso, ammesso che lo smitter che c'hai sia diciamo funzionante regolarmente, lo stai anche ricevendo più basso del solito. E io 2,5 watt sto usando adesso, poco fa ho aumentato, capito? Ma che cocomane sei tu, sì, Luca, Pugioni, cosa vuoi, ti telefoni stanotte alle 2? Andiamo, chi è? Ciao Luca. Buonasera. Ciao Vittorio. Ciao, come va? Ogni tanto ti senti? Ho visto, va, non so se ti ha mandato i saluti tua figlia, l'ho vista da poco. Andava bene, tutto bene, dai. insomma, ma sta lavoricchiando così, speriamo di duri. Mi sa che non dura assai, no? Si continua a rivussi, lui. Va bene, dai, riprendete. Ciao anche a Gianfranco, riprendi. Sì, ciao Luca, buonasera. Riprendi Natale un attimino, sto guardando una cosa. Sì. E certo che con questo virus è una maledizione che ci è caduta tra capo e collo. Poi io quest'anno sono stato male, sono finito all'ospedale 3 volte. 2 volte in sala operatoria sono finito, figurati un po' in che situazione sono. Oh mamma mia, che cos'era? Sì, male sono stato. Ho avuto una pancreatite acuta, sono diventato diabetico, poi mi hanno operato alla colicisti e a un'ernia che mi era uscita, sedendomi in macchina con un amico me ne è uscita quest'ernia, meno male sono riuscito a farmela rientrare e poi mi sono fatto operare perché se no me ne usciva sempre fuori, capito? Sono arrivato a pesare 52 kg, adesso uno scheletro ero. E cosa ti volevo dire? Sono arrivato a 60 kg, là, mi sto riprendendo. Sì, non lo sapevo, davvero. Se non ti avessi almeno telefonato, non sapevo nulla. Non ci siamo più sentiti, io poi ero impegnato, in questo periodo qua ero impegnatissimo, correndo da una parte all'altra per varie cose. La radio adesso la chiede proprio per miracolo, insomma, porca miseria, che provo a vedere. E ti ho sentito per questo che no. E quindi mi dispiace, ma comunque ti stai rimettendo bene, dai. Sì, già mi sto rimettendo. Rimane il diabete che da quello non guarisci, perché purtroppo il pancreas è andato. Quella è una cosa pericolosa, amico. Lì bisogna stare molto attenti. Il pancreas ti porta poi quella roba, già lo sappiamo. Gli ha messo qualche cosa a un amico. Di materiale mi hanno tolto, guarda, è diventato una larva, non voleva visto, poi si è ripreso piano piano, però non c'è niente da fare, non dura. E io già lo tengo sotto controllo il diabete, non c'è problema, più di quel tanto non mi sale, ne faccio pochissima insulina, già lo tengo sotto controllo io, non c'è problema. Solo che sono stato molto ma molto male, sono vivo per miracolo. Già lo so come funziona quella roba lì, per quello che sto dicendo. Purtroppo quando capitano queste cose bisogna farci una ragione, siamo nati e poi dobbiamo anche andarcene, poi non possiamo vivere in eterno, questa è la prassi della vita che ci ha riservato, cosa ci vuoi fare? Ci soprassediamo, via, non ho altro da dire, perché se continuo a fare quello poi ti rattristi ancora di più. Ok, mando il mic a Luca, se non si è sentato, riprenditela tu un attimo. Si è sentata perché sta magari aggiustando qualcosa e quindi non è che risponde sempre, diciamo così. E vabbè, cosa vuoi che ti dica? Io già stavo pregando di morire perché guarda, non fate, sono vivo per miracolo, guarda. Non lo so neanche io, ma vabbè, è andata così, speriamo che non mi capitano più di queste cose così. Vuol dire che su non ti volevano, Natale. Deve essere che gli sono antipatico e non mi volevano, già, cosa vuoi che ti dica? Vitaccia, È una vitaccia, ce n'è per tutti, lascia perdere. E quando tu vedi la gente camminando nelle strade, che cosa credi? Che tutti sono sani, tranquilli, pacifici? No, tutti hanno dei problemi, certo non lo vedi. E quello sta camminando, quindi sembra sano, ma anche quello dei problemi, non ce n'è, gente sanissima, perfetta, non ce n'è, tutti abbiamo dei problemi. Sì, già lo so, Vittu, già lo so. Comunque io già sto uscendo e tutto, stamattina ho portato il cane, mi ho fatto un giro e domenica per esempio no, quando è? sono andato lì vicino a Castelsardo con mia moglie, ci abbiamo preso il gelato lì e via. Anda bene meno, dai, già sto uscendo, non è che mi abbasso così io. Bravo, Antonio, hai fatto bene. Eh certo, ma hai fatto bene, è meglio fare casa. Guarda, uscendo hai anche possibilità di camminare, anche fa bene. Io dovrei camminare lo stesso, ma già sto uscendo adesso. Stamattina l'ho portato io il cane, mi sono fermato al bar lì, mi sono preso il caffè e via. E poi me ne sono tornato a casa. E quindi Gianfranco, siamo vicini di casa, ohia. Magari ci abbiamo anche la stessa. Io sono della classe natalino, Natalino è andato a casa di Falcone stamattina. E perché tu non sei Pinocchio? Barrato. Ciao Antonio. Ciao Natalino. Ciao la buona anima di Vittorio. Ciao anche a tutti quelli che sono nel canale. Ciao Antonio, ben sentito. Dopo tanto tempo, porca miseria. Non l'ho acceso oggi, mi sono un po' emozionato, porca miseria. Se la fai che non è il cavi, già lo credo, così. Ciao Antonio, buonasera. Ma Vito, quindi sei più grande di noi? Qualche anno. Quindi sei oltre gli 80, caspita. No, over 7. Ah, sei fermo di 7. No, stavo scherzando, noi siamo su 6 e mezzo, anche Natalino, se non ricordo male, però Natalino 6 e mezzo. E io sono del 57, cioè non me li nascondo gli anni, classe del vero. E quindi siamo pari, mi ricordavo bene. Quindi Vittorio è più grande. Sì, Vittorio è più grande di noi. Io sono quanto è grande. Aspettano il telefono. Già l'abbiamo sentito anche nel telefono. Riprendi Vito. Si sta invecchiando purtroppo, molte volte lì in radio si ha una domesticchezza nel parlato, non si nota, no? Uno che ha un modo di parlare così, però ci sono, quando si arriva a una certa età, la tua esempio per dire Berlusconi, no? Berlusconi quando era giovane parlava, adesso tu lo senti parlare, sembra che non si capisca nulla, tipo Emilio Fede che l'hanno licenziato perché non si capiva un cazzo quando parlava nel telegiornale, dice vediamo il servizio e non si capisce niente, quando mai non se ne accorgeva che ormai era consumato e doveva volare e andarsene. Vabbè, ma quello era consumato per altri motivi, perché già lo sai, Emilio Fede si è rovinato, ma ha rovinato tutto, perché è diventato un poveraccio, perché era un accanito giocatore d'azzardo. Adesso non c'ha neanche soldi, quindi ha risolto quel problema lì. Infatti non si sente più di essere in condizioni proprio penose. Ma avanti Antonio. E già sta bene, già guadagna 2000 e passa euro di pensione, cosa vuoi? Che sono peggio di lui. E non gli basta, non ho capito, ho detto. Ma c'è un sacco di gente così, abituata male. Capito, lui la mattina si alzava e con tutti i soldi che faceva, capito? Si divertiva. Adesso è un po' più fallo e sta male per quello. A parte la gente che frequentava, prova a ridare, più che al sesso non pensava allora. Sì, fa gente viziosa. Riprendi Vito. E di chi stavate parlando che non ho sentito che stavo telefonando? Sono 85 anni e che cosa vuoi fare? Non hai quel brio, quella giovinezza, purtroppo gli anni sono quelli e ti devi accontentare di chiudere i battenti e rimanere a casa a fare il pantofolaio. Perché a quell'età, se anche qualcuno ti sta intorno, vuol dire che è interessato ai soldi, mica altro. È logico che non può andare più con le ragazzine come una volta. perché quelle consumano parecchio, zucchine di Natalie, va Antonio, poi vedi un po' se è rientrato Natalino. Già sono rientrato, è che non mi avete sentito perché sono piccolo e nero. Ehi, già non sei nero, non ti preoccupare. E mi difende, doveva far parte di Pacciani, compagno di merende, che poveraccio quello l'ha ammazzato l'anno, perché sapeva troppo. C'era poco di casino con Pacciani. Tutti i testimoni sono tutti quanti li hanno ammazzati. Figurati. Poi, per carità. Ma di chi stavate parlando? Non ho capito il discorso perché avevo abbassato il volume che ero al telefono. Chi è che va con le ragazzine? Emilio Fede. Ah, sì, quello è vizioso, Già lo credo che non gli bastano i soldi, altro che qui li si è mangiato. E poi le cavalli di sedere a Berlusconi, poveraccio, ha preso il figlio e gli ha dato un bel calcio in culo e se l'ha fatto fuori. Sì, infatti, a quello l'hanno fatto fuori, sì. Era un bravo direttore quello, Il suo lavoro già lo sapeva fare, però quello lì abituato con quell'altra persona, gli piacevano le ragazzine e cosa vuoi fare? Altro non poteva fare con tutti questi di cui si mangiava. Avanti Vittù. Il fatto che loro andassero con queste ragazze così giovanissime è perché gli è stato concesso, perché se già dall'inizio li avessero malmenati probabilmente non ci sarebbero andati, invece hanno fatto quello che hanno fatto, li hanno condonati e non hanno preso una bella punizione come tanti altri. Se l'avesse fatto cittadino qualsiasi in America ad esempio li avrebbero subito ma in America, sono in America, qua siamo in Italia. Tieni presente che comunque molte ragazzine ambivano ad andarci, perché a molte dava addirittura lo stipendio mensile, quelle che c'aveva lì, le cosiddette ugiattine. Quelli non so quanto prendevano al mese di stipendio senza lavorare, andando solo a feste, eccetera, eccetera. Ma la colpa io non la do neanche a loro, perché l'uomo è un cacciatore per natura, pur che sia giovane, anziano, vecchio, solo, questo è poco importanza. Il problema è delle donne, sono loro che vanno a rompere i coglioni agli uomini, questo è. No, specifica. Agli uomini che hanno i soldi, perché a quelli che non ne hanno neanche li cagano, tutto lì vero Natali. Infatti a me che sono povero cagano, mi caga nessuno. Vanno dove ci sono i soldi le donne e vanno solo ed esclusivamente per quello, perché non vanno per la bella faccia sua, vanno per i soldi che ha uno. Sì, questo è vero, però se queste da ragazze che hanno bisogno di soldi vanno a cercare queste persone che ne hanno e poi invece di non dire niente a lungo andare poi dicono che sono state violentate, io l'avrei punito le ragazze, non quelli là, hai capito? E infatti cosa violentate? Andavano, erano consenzienti, erano, non le ha violentate nessuno, erano ben pagate pure, perché altro che stipendio gli dava quella persona lì, gli faceva i regalini grossi, altro che. E lui ci ha fatto il regalino, la pompetta per fare sollevare il click. No, la cosa buffa è che arrivati a quell'età in cui si ha anche esperienza non ci si arrende all'evidenza, ecco. Sì, io ne avevo avuto la vergogna a quell'età lì, mica vecchio mi. Se respira per miracolo. E non hai visto che c'è il medico appresso, sì. E io sai che gli venga un infarto, per collo, già lo credo che c'è il medico sempre appreso. Quando arriva quell'ora, medici che possono salvarlo ce ne sono. Quando ti chiama quella persona là che abita di là, dice per fare niente. Vitto, hai visto sì quello che c'era dove passiamo al passaggio a livello, sì. Mi hanno detto che era malato da tempo, però insomma era in piedi, andava lì. Poi d'improvviso, poc. Chi è questo? Quello del bar. Ah, Rocco. Pinuccio. Ah, Pinuccio, sì. Io abito dopo di lui, a sinistra. Venga. Stavo passando, mia moglie, stiamo scendendo, e ho visto tutto questa macchina. Ma cosa è successo qua? E si è morto uno. Insomma, è anziano, e dice un po' anziano. E poi me sono andato. Ho detto, vabbè, sarà il padre di qualcuno che abita lì, perché io so che abita lì. Conosco tutti, dal primo all'ultimo. Senza pensare che poteva essere quel Pinuccio. Poi al rientro mi sono fermato, ho detto, ma scusa, sempre lo stesso ragazzo. Ho detto, ma chi è? Dice, porca miseria, all'improvviso. Se ne immagini, questo qua era al mare. Neanche a fare la porta, era a Platamona e c'era mia figlia che l'ha visto lì. Poi si è cambiato ed è partito a casa. Arriva a casa, muta. Ho una chiamata urgente dal piano di sopra, qui sta una tale come capita. Quando me lo aspetti, fa la frittata. E infatti, succede proprio così. Siamo tutti appesi a un filo, non puoi fare pronostici e dire ma io a me non mi fanno nulla, eccetera, no. Io mi ricordo, ad esempio, all'inizio del Covid, no? Ero molto amico di Giovanni Secchi, non so se lo conoscete, quello dello Amigos, che suona il capo del gruppo, insomma, e abita la Landriga. E io ogni settimana ci andavo lì, suonavamo insieme nella fragnameria di San Santino, e questo qua si sentiva male e non ci voleva andare all'ospedale, cioè non ci voleva andare, non aveva nulla, non aveva il virus non lo aveva lui. È andato in ospedale per controlli, che becca il virus, è morto dopo 3 giorni. Roba incredibile. C'è gente che ancora non ci crede che succede così. Questo è un cosa, è arabo? Ah, quello che c'è sotto, sarà spagnolo, francese. Sono sempre lì da quelle zone, però c'è un po' di propagazione. Antonio, riprendi tu. Un po' lo sono allontanato. Comunque era più giovane di noi, magari anche, anzi sicuramente anche Natalino lo conosce. E a chi? No, quella persona che stavamo parlando con un certo tipo. E così, sarà qui. Guarda, abita in linea d'aria a 500 metri da me. Ma all'inizio della via, no? Nella stessa via. Sì, perché avevo visto tante macchine, e poi le stesse macchine le ho viste lì alla chiesa, quindi c'erano più uno, capisci che se non è matrimonio, insomma, vabbè, c'è poco da fare, no? Purtroppo siamo appesi tutti a un filo di tutti lì, finché dura, quando si spezza, E anche più giovane di noi, neanche 60 forse c'erano. Ma credo che avesse 59, no, non so se delle 59 o aveva 59 anni, non lo ricordo bene. Sì, comunque era più giovane, dai. Noi siamo, io Natalino, 57, quindi lui era, credo, avesse 59 anni, non cosa del genere. Quella è stata una chiamata urgente. Uno o due ne hanno chiamato in questi 2 anni, anche molti colleghi radioamatori, va a chiedere, beh come sta? No, è morto. Cavolo! Cioè, sono stati 2 anni veramente di terribile, tanta gente non c'è più e tu magari vai a cercarli, invece non ci sono più, non sono più qua. Sorribilis. Del virus, che ha determinato in qualche modo, molto probabilmente. Però già ci sono molte finte di questo fatto del virus. Perché io avevo un amico che adesso è andato in pensione, ne avevo fatto l'anno scorso, che era alla pronto soccorso lì, e dicevano che l'ospedale erano guarda, io ti posso dire che si può affermare senza paura, perché lo sai da tanta gente, lo sai anche per esperienza, noi siamo in una situazione di, che non abbiamo assistenza praticamente, perché l'ospedale, quell'ospedale non funziona per tanti motivi, perché è piccolo, perché serve un territorio enorme, perché è l'ospedale più grosso che c'è in tutta la zona, quindi si becca quelli di tutto il circondario, di Ippi, di Sorso, Sennori, Porto Torres e così via. Quindi, e poi è condotto come è condotto, perché ci sono tutti i reparti che sono in crisi forte. Succedono cose in quel posto che a volte è meglio non sapere, guarda, se no preferisci morire a casa che andare lì. Purtroppo questa è la situazione, la regione non ci mette mano, perché lì c'è da metterci in mano di brutto, perché la sanità sassarese ora come va non funziona, non sta funzionando. Secondo alcuni dati, figurati che le visite che fai, i controlli eccetera eccetera, c'è un a Cagliari se la fanno in un terzo del tempo, qua ci vuole il triplo per farla, quindi se tra un mese a Cagliari, di qua è tra 3-4 mesi, sono pure qualcosa in più. Tuttavia la situazione, per quello poi durante il Covid molti sono morti perché neanche ci passavano in ospedale. Sì, questo senz'altro è capillare quello che hai detto, però la sanità non sta funzionando, perché la struttura è buona, ma è il medico che non è... È una questione di uomo, è l'uomo, lì l'uomo c'è e non c'è. È inutile che la struttura è organizzata, che ha tutti i macchinari preposti per fare quegli interventi, quando è l'uomo che non è capace a fare queste cose. Quindi la sanità non funziona perché non abbiamo il personale adatto, non ha giusto che fa quello che deve fare. Sono infermieri, i medici che ci sono lì in ospedale, io ho un'esperienza, la verità, non mi va di raccontarla, ma un medico che prima si diagnostica una determinata cosa e poi dopo che hanno fatto altri esami si dicono no, è stato un errore, non era quello ma era un altro. Ma come fai? Ma tu prima di diagnosticare che è questo il problema, perché non fai prima un esame approfondito e al paziente gli dici che non hai un cancro ma non ne hai? Perché non hanno la diagnostica seria, non hanno delle persone che evidentemente riescono a capire, a interpretare i risultati che ti danno con le macchine in maniera corretta, e tutti questi fattori che comunque hanno tutti una loro motivazione, che è quella che molta gente è stata infilata lì senza avere competenze. Tutto lì è il problema, è un problema di tutta la pubblica amministrazione, perché se ne sentono di cotte e di crude, purtroppo lì c'è sempre il ditino dei politici. Se i politici facevano i politici e non l'ufficio di collocamento, le cose sarebbero state diverse. Ma siccome piace fare l'ufficio di collocamento a molti politici, e lo fanno ancora, fanno danno e basta. Tutto lì è, caro Vittorio, tempi duri, molto molto duri, e non migliorano, credo. Vero Natali, riprendi. Natalino? Non posso riprendere, dai, riprendete voi, vi ascolto perché sto facendo cosa. Ah sì, Natali, non avevo guardato l'orologio, capito al volo. Purtroppo è così. Povero che ci finisce. Riprendi Vittorio, allora c'è anche Antonello, ma non ha risposto, poco fa, vediamo Antonello, niente, riprendi tu Vittorio. E anche lui sta facendo cose, e vabbè, no, il discorso è semplicissimo, noi ci troviamo di fronte a una situazione veramente incresciosa, se tu pensi che molti medici bravi, qua a Cassarese, parliamo proprio di Cassarese, sono scappati via, che cassiere. Qua invece ci troviamo di fronte a delle, cioè, non sono medici, secondo me sono, io li considero infermieri. Per me i medici che noi abbiamo in ospedale, ma sapete che fanno così? Perché sono arrabbiatissimo, a me hanno rovinato mia figlia. Un medico, un professore, dice, professore, ma professore di che cosa? L'ha operato la gamba, un ginocchio che aveva una angioma, ma se tu non sei capace di fare questo intervento, perché non lo dici chiaramente che il paziente non ti vuole, se ne va in un'altra regione, va a Bologna, va a Milano, va a Roma, e quell'intervento lo fa. No, prima dice che lo poteva fare, non lo poteva fare perché non avevamo le strutture giuste, poi invece che cosa fa? Ah, ma sì, no, lo facciamo, vabbè, rovinato. E quello è uno dei tanti, ma tanti, anzi troppi casi che si verificano quel posto, perché te l'ho detto, non si diventa medici con l'esperienza, con la passione, perché è un lavoro che deve avere la passione. Se ci sei entrato lì sopra per lo stipendio, è meglio che lo lasci prima che ammazzi qualcuno, ecco. Tutto lì, ognuno deve ammettere i suoi limiti, e questi purtroppo dei limiti ne hanno tanti, e ognuno di noi, perché ognuno di noi si è potuto rendere conto che la situazione è questa, perché non senti altro di persone che si lamentano, e io vorrei essere il primo che queste persone si lamentassero a torto, però la mia esperienza è che si lamentano a ragione, il problema è lì. Quindi è così, tu pensa che a me in un certo ospedale di fuori, molto noto, mi hanno detto, sai che cosa, ci tiene la pelle, sì, è vero, sono pazzi, ci tengo, ecco, allora faccio una cosa, in quel posto non ci vada più, sono stati molto chiari. Ma guarda, io ci sono delle persone che fortunatamente c'è un certo equilibrio in alcune. In alcune altre equilibri non ce n'è, non è il primo che quando fa un danno o interviene o il fratello o il padre, come gli ha successo altre volte, che interviene e dice tu hai fatto un intervento, perché l'hai fatto? Mi hai rovinato? Vabbè, adesso rovino io a te, come gli ha successo? No, ma sono successo tantissime volte, non lo sto dicendo così per tanto per dire. Gente che ha punito il medico perché ha sbagliato facendo l'intervento, e però poi si è rimesso qui. Si è rimesso sempre quello che è andato a vendicarsi di questa cosa. E il medico non gli hanno fatto niente. Invece, se fossimo intervenuti prima, questo non sarebbe successo. Non c'è ombra di dubbio. È chiaro, su tutte le cose, se non intervieni nel momento giusto, poi degenerano e finiscono male, ed è così purtroppo, perché ripeto, chi dovrebbe organizzare non ha le capacità organizzative, e questa cosa si sta diffondendo perché tutti i nodi stanno venendo al pettine, con la mancanza di personale, perché il personale che c'era, che bene o male sapeva fare qualcosa, se n'è andato, e adesso sono rimasti solo quelli che magari sono entrati, come ti ho detto, e non sanno fare ben poco, e quindi si creano queste situazioni. Purtroppo è così, mentre chi va fuori, dove c'è un'organizzazione, viene inquadrato, viene valutato, soprattutto se è capace lo tengono, se non è capace le dicono vabbè, vai a fare un altro lavoro su, e qua non ti vogliamo, perché c'hanno una dirigenza ben diversa. Qua la dirigenza da tanti anni è sempre la stessa, c'è gente che c'è da 40 anni lì arroccata, ha fatto dei disastri, che guarda, a quella micidiale. Purtroppo siamo in questa situazione, c'ho paura che durerà ancora. Sì, purtroppo durerà, perché se però mai nessuno intervenisse a punirli questi che sono incapaci, siamo sempre lì. Allora cosa facciamo? Se tu lavori in una struttura ospedaliera che hai un compito ben preciso, mio illustre, non fa così. Tu non sei un medico, tu sei un infermiere. L'infermiere è limitato a fare quelle cose. Il medico sì, hai preso la laurea, ma sai quante lauree ci sono? Allora, è inutile che uno si laurea e fa il geometra. Uno fa il geometra, no? Poi si iscrive all'università e comincia. Già è riuscito a malapena a prendersi il diploma di geometra, no? Si iscrive all'università e riesce tramite incontri, eccetera, eccetera, ingegnere. Ingegnere di che cosa? Che non sai fare un disegno? Sei una vergogna, perché ne conosco qualcuno, è come dire che esperimento in questo modo. Ma per carità, ma come fai a continuare a fare quel lavoro? Sei pericoloso, perché se tu costruisci una casa, fai il progetto di una casa, ecco, la casa poi crolla, come tante sono crollate purtroppo. Cosa fai? Non ti arrestano, ma chiede a uccidere, se non arrestarti. Sì, Vito, ma sai qual è il problema? Il problema non è tanto che uno sia capace o incapace. Il problema è quello che queste persone spesso non entrano per merito, entrano perché conoscono quello, conoscono quell'altro e quindi entrano sorpassando chi c'è al medico. Se tu noti, tutti quelli che se ne vanno fuori hanno successo perché sono stati scartati, seppur bravi, sono stati scartati perché c'era quello che chi c'aveva il padre, chi c'aveva lo zio che magari era la ragione, chi c'aveva qualche altro, e sono entrati in quella maniera. E tu giustamente che hai studiato, hai fatto sacrifici, hai studiato proprio giorno e notte, ti ritrovi con un calcio nel sedere perché ti ha passato quello che hai studiato non ha, è ovvio che poi si creano queste situazioni. Cioè il merito, quello che si chiama il merito, non viene valutato, non viene valorizzato. E quindi quando c'è gli amici politici diventa dirigente, capo, e facendo tutta questa bella carriera poi ci ritroviamo dove ci ritroviamo. Guarda, io ti posso dire, avanti ieri ho fatto la strada a Sassari Olbia, mi sono messo le mani in testa di quello che stanno facendo, perché è già tutta a buchi, cioè una strada che non è neanche finita è già a buchi. Questo cosa ti fa capire? Che c'è qualcuno che non vede, non sente, che probabilmente neanche ci passa in quella strada, e magari sta dando un pacco di soldi per fare una cagata. Soldi nostri, tutto lì. Sì, vabbè, quello poi è un'altra parrocchia a parte, quella delle strade, che c'è un magna, diciamo. Però perché non ci sono controlli, quando un'azienda seria prende in appalto un lavoro di tipo queste delle strade che stanno facendo queste periodi, e poi sono appalti a persone, non è che è un'azienda che fa tutta la strada,